Ad alta voce, Manuela Mandracchia legge Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Per terra, sotto gli alberi del bosco, ci sono prati ispidi di ricci e stagni secchi pieni di foglie dure. A sera lame di nebbia si infiltrano tra i tronchi dei castagni e ne ammuffiscono i dorsi con le barbe rossicce dei muschi e i disegni celesti dei licheni. L'accampamento si indovina prima di arrivarci, per il fumo che si leva sulle cime dei rami e il cantare d'un coro basso che cresce approfondendosi nel bosco. È un casolare di sassi alto 2 piani, un piano di sotto per le bestie con per pavimento terra e un piano di sopra fatto di rami perché ci dormono i pastori. Ora ci stanno uomini sopra e sotto, su lettiere di felci fresche e fieno. E il fumo del fuoco acceso a basso non ha finestre per uscire e si ingolfa sotto le lavagne del tetto e brucia gole e occhi agli uomini che tossono. Ogni sera gli uomini s'acculano intorno alle pietre del focolare acceso al coperto perché non lo vedano i nemici e s'accavallano gli uni sopra gli altri, con Pin in mezzo illuminato dai riverberi che canta a gola spiegata come nell'osteria del vicolo. E gli uomini sono come quelli dell'osteria, a gomiti puntati ed occhi duri. Solo non guardano rassegnati il viola dei bicchieri. Nelle mani hanno il ferro delle armi e domani usciranno a sparare contro uomini, i nemici. Questo è diverso da tutti gli altri uomini, avere dei nemici. Un senso nuovo e sconosciuto per Pin. Nel vicolo c'erano urli e liti e offese di uomini e di donne giorno e notte, ma non c'era quella mara voglia di nemici, quel desiderio che non lascia dormire alla notte. Pin non sa ancora cosa vuol dire avere dei nemici. In tutti gli esseri umani per Pin c'è qualcosa di schifoso come in vermi e qualcosa di buono e caldo che attira la compagnia. Invece costoro non sanno pensare ad altro, come innamorati, e quando dicono certe parole tremano nella barba. E gli occhi luccicano e le dita carezzano l'alzo dei fucili. A Pin non chiedono che canti loro canzoni d'amore o canzonette da ridere, vogliono i loro canti, pieni di sangue e di bufere, oppure le canzoni di galere e di delitti che sa solo lui, oppure anche canzoni molto scene che bisogna gridare con odio per cantarle. Certo, essi riempiono Pin d'ammirazione più di tutti gli altri uomini. Sanno storie di autocarri piene di gente sfracellata e storie di spie che muoiono nude dentro fosse di terra. Sotto il casolare i boschi diradano in strisce di prato e là dicono che ci sono spie seppellite e Pin ha un po' di paura di passarci alla notte per non sentir tirare i calcagni da mani cresciute in mezzo all'erba. Pin è già uno della banda. È in confidenza con tutti. E per ognuno ha trovato la frase per prenderlo in giro e per farsi rincorrere e fare il solletico e prendere a pugni. Mondo boia, comandante, fa al dritto. M'han detto che ti sei già fatto fare la divisa per quando vai in giù, con i gradi, gli speroni e la sciabola. Coi comandanti Pin scherza, ma sempre cercando di tenerseli buoni, perché gli piace d'essere loro amico e anche per vedere di scansare qualche turno di guardia o di corvè. Il dritto è un giovane magro, figlio di meridionali emigrati, con un sorriso malato e palpebre abbassate dalle lunghe ciglia. Di professione fa il cameriere. Bel mestiere perché si vive vicino ai ricchi e una stagione si lavora e l'altra si riposa. Ma lui preferirebbe starsene sdraiato tutto l'anno al sole, con le sue braccia tutte nervi sotto la testa. Invece, suo malgrado, ha una furia che lo tiene sempre in moto e gli fa vibrare le narici come antenne. E gli mette addosso un sottile piacere a maneggiare le armi. Al comando di brigata hanno delle prevenzioni contro di lui perché sono arrivate informazioni poco buone sul suo conto dal comitato e perché nelle azioni vuole sempre fare di testa sua e gli piace troppo comandare e poco dare l'esempio. Però quando vuole è di fegato e comandanti ce ne sono pochi. Così gli hanno dato quel distaccamento su cui non si può fare grande assegnamento e serve più per tenere isolati degli uomini che potrebbero rovinare gli altri. Il dritto è offeso di questo con il comando e fa un po' per conto suo e batte la fiacca. Ogni tanto dice che è malato e passa le giornate sdraiato sul letto di felci fresche del casolare, con le braccia sotto la testa e le lunghe ciglia abbassate sugli occhi. Per farlo rigar dritto ci vorrebbe un commissario di distaccamento che sapesse il fatto suo, ma Giacinto, il commissario, è stremato dai pidocchi che si è lasciato crescere addosso, tanto che non può più tenerli a freno, così come non sa avere autorità sul comandante né sugli uomini. Ogni tanto lo chiamano al battaglione o alla brigata e gli fanno fare la critica della situazione e studiare i sistemi per risolverla. Ma è fiato sprecato, perché lui torna e riprende a grattarsi mattina e sera e fa finta di non sapere quel che fa il comandante e quello che gli uomini ne dicono. Il dritto accetta gli scherzi di Pin muovendo le narici e col suo sorriso malato, e dice che Pin è l'uomo più in gamba del distaccamento e che lui è malato e vuole ritirarsi e il comando lo possono dare a Pin, tanto le cose andranno sempre di traverso. Allora tutti attaccano a mettere in mezzo Pin, a chiedergli quando è che viene a fare un'azione, se sarebbe capace di mirare su un tedesco, di sparargli. Pin s'arrabbia quando gli dicono queste cose, perché in fondo di trovarsi in mezzo agli spari avrebbe paura e forse non si sentirebbe il coraggio di sparare addosso a un uomo. Ma quando è in mezzo ai compagni vuol convincersi d'essere uno come loro e allora comincia a raccontare cosa farà la volta che lo lasceranno andare in battaglia e si mette a fare il verso della mitragliatrice tenendo i pugni avvicinati sotto gli occhi come sparasse. S'eccita allora. Pensa ai fascisti, a quando lo frustavano, alle facce bluastre imberbi nell'ufficio dell'interrogatorio. Ta ta ta ta ta ta! Ecco che tutti sono morti e mordono il tappeto sotto la scrivania dell'ufficiale tedesco con gengive di sangue. Ecco la voglia d'uccidere anche in lui aspra e ruvida. D'uccidere pure il piantone nascosto nel pollaio, anche se è tonto, proprio perché è tonto. D'uccidere anche la sentinella triste della prigione, proprio perché è triste e tagliuzzata in faccia dal rasoio. È una voglia remota in lui come la voglia d'amore. Un sapore sgradevole e eccitante come il fumo e il vino. Una voglia che non si capisce bene perché tutti gli uomini l'abbiano e che deve racchiudere a soddisfarla piaceri segreti e misteriosi. «Se io fossi un ragazzo come te», gli dice Zene Lungo detto berretta di legno, «non ci metterei tanto a scendere in città e sparare a un ufficiale, poi scappare qui di nuovo. Tu sei un ragazzo e nessuno ti baderebbe e potresti andargli fin sotto il naso e anche scappare ti sarebbe più facile». Pin si tortura dalla rabbia. Sa che gli dicono queste cose per prenderlo in giro e poi non gli danno armi e non lo lasciano allontanare dall'accampamento. «Mandatemi», dice, «e vedrete che ci vado». «Dai, parti domani», gli dicono. «Quanto ci scommettiamo che un giorno vado giù e faccio fuori un ufficiale?» fa Pin. «Ale», dicono gli altri, «gliele dai le armi, dritto?» «Pin è aiuto cuciniere», dice il dritto. «Le sue armi sono il coltello per le patate e il mestolo». «Me ne strafotto di tutte le vostre armi! Mondo boia, c'ho una pistola marinaia tedesca che nessuno di voi ne ha una uguale!» «Perbacco», fanno gli altri, «dove la tieni, a casa? Una pistola marinaia sarà di quelle acqua!» Pin si morde le labbra. Un giorno andrà a disseppellire la pistola e farà cose meravigliose, cose da sbalordire tutti. Quanto ci scommettiamo che c'ho una pistola P38 nascosta in un posto che so solo io? «Ma che partigiano sei che tieni le armi nascoste? Spiegaci il posto che l'andiamo a prendere!» «No, è un posto che so solo io e non lo posso dire a nessuno». «Perché?» «Ci fanno il nido i ragni». «Ma va là, quando mai i ragni hanno fatto il nido? Mica son rondini!» «Se non ci credete, datemi un'arma delle vostre». «Noi le armi ce le siamo fatte, ce le siamo conquistate!» «Anch'io me la sono conquistata, mondo boia, in camera di mia sorella, mentre l'altro...» Gli altri ridono. Non capiscono nulla di queste cose. Pin vorrebbe andarsene a fare il partigiano da solo con la sua pistola. «Quanto ci scommettiamo che te la trovo io, la tua P38?» Chi ha fatto questa domanda è Pelle, un ragazzo gracile, sempre raffreddato, con dei baffetti appena nati sopra le labbra sbavate dall'arsura. Sta lustrando un otturatore con attenzione, a colpi di straccio. «Ci scommettiamo anche tua zia, tanto il posto dei nidi di ragno non lo sai», fa Pin. Pelle smette di fregare con lo straccio. «Moccioso! Io i posti del fossato li conosco palmo a palmo. E tutte le ragazzine che ho coricato per quelle rive, tu non lo immagini nemmeno». Pelle ha due passioni che lo divorano, le armi e le donne. Ha ottenuto l'ammirazione di Pin discutendo con competenza di tutte le prostitute della città e facendo degli apprezzamenti su sua sorella la nera, che lasciavano capire che conosceva bene anche lei. Pin ha un'attrazione mista a repulsione per lui, così gracile e sempre raffreddato, che racconta sempre storie di ragazzine prese a tradimento per i capelli e coricate nei prati, o storie d'armi nuove e complicate che ha in dotazione la Brigata Nera. Pelle è giovane, ma ha girato tutta l'Italia con i campeggi e le marce degli avanguardisti e ha sempre maneggiato le armi ed è stato nelle case di tolleranza di tutte le città, pur senza avere l'età prescritta. «Nessuno lo sa dove sono i nidi dei ragni», dice Pin. Pelle ride, scoprendo le gengive. «Io lo so», dice. «Adesso vado in città a prelevare un mitra a casa d'un fascista e cerco anche la tua pistola». Pelle ogni tanto parte e va in città e torna carico d'armi. Riesce sempre a sapere dove ce ne sono nascoste e rischia ogni volta di farsi prendere pur di aumentare il suo armamento. Pin non sa se Pelle dice il vero. Forse Pelle è il grande amico tanto cercato, che sa ogni cosa delle donne e delle pistole e anche dei nidi di ragno. Però mette paura con quei suoi occhietti rossicci, raffreddati. «E se la trovi, me la porti?» fa Pin. Il ghigno di Pelle è tutto gengive. «Se la trovo, me la tengo». È difficile togliere un'arma a Pelle. Ogni giorno succedono scene al distaccamento, perché Pelle non è un buon compagno e vanta diritto di proprietà su tutto l'arsenale che si è procurato. Prima di presentarsi alle bande, era entrato nella Brigata Nera per avere un mitra e girava per la città sparando ai gatti durante il coprifuoco. Poi aveva disertato dopo aver svaligiato mezz'armeria e da allora aveva sempre fatto la spola con la città, scovando strane armi automatiche e bombe a mano e pistole. La Brigata Nera tornava spesso nei suoi discorsi, dipinta a colori diabolici, ma non privi di fascino. «Alla Brigata Nera fanno questo, dicono quest'altro». «Dritto! Allora io vado, siamo intesi?» fa Pelle adesso, con delle piccole linguate sulle labbra, tirando su dal naso. Non si dovrebbe lasciare andare e venire un uomo come piace a lui, ma le spedizioni di Pelle rendono sempre, non torna mai a mani vuote. «Ti lascio star fuori 2 giorni», dice il Dritto. «Non di più, siamo intesi? E non fare stupidaggini da farti prendere». Pelle continua a umettarsi le labbra. «Mi porto lo stand nuovo», dice. «No», fa il Dritto. «Hai lo stand vecchio. Quello nuovo serve a noi». Siamo alle solite. «Lo stand nuovo è mio», dice Pelle. «L'ho portato io e lo prendo quando voglio». Quando Pelle comincia a litigare, gli occhi gli s'arrossano ancora di più, come stesse per piangere, e la voce diventa ancora più nasale e mucosa. Il Dritto invece è freddo, inflessibile, con solo un ruotare delle narici prima d'aprir bocca. «Allora non ti muovi», dice. Pelle comincia una lagna in cui vanta tutti i suoi meriti e dice che se è così lui lascia il distaccamento, però si porta via tutte le armi. Gli arriva uno schiaffo secco del Dritto su una guancia. «Tu obbedisci a quello che ti dico, va bene?» I compagni guardano e approvano. Non stimano il Dritto più di Pelle, ma sono contenti che il comandante si faccia rispettare. Pelle è lì, che tira su dal naso con il segno rosso delle 5 dita sulla guancia pallida. «Te ne accorgerai», dice Pelle. Si volta ed esce. C'è la nebbia fuori. Gli uomini alzano le spalle. Già altre volte Pelle ha fatto simili scene e poi è sempre tornato con nuovo bottino. Pigli corre dietro. «Di, Pelle, la mia pistola! Senti un po', quella pistola?» Non sa nemmeno lui cosa vuol chiedergli. Ma Pelle è sparito e la nebbia smorza i richiami. Pin torna in mezzo agli altri. Hanno fili di paglia nei capelli e sguardi acidi. Ravvivare l'atmosfera e rifarsi delle canzonature, Pin prende a far scherzi a chi è meno capace di difendersi e si presta di più a essere preso in giro. A questo punto vengono messi in mezzo i 4 cognati calabresi, Duca, Marchese, Conte e Barone. Sono 4 cognati. Sono venuti dal paese a sposare 4 sorelle compaesane emigrate da queste parti e fanno bando un po' per conto loro sotto la guida di Duca, che è il più anziano e sa farsi rispettare. Duca ha un berretto tondo di pelo abbassato su uno zigomo e dei baffetti dritti sulla faccia quadrata e fiera. Porta un pistolone austriaco infilato alla cintura. Basta che uno lo contraddica perché lo squaderni e glielo punti sullo stomaco masticando una frase truculenta in un suo linguaggio rabbioso e pieno di doppie e strane desinenze. «Me ne batti i balli!» Geppi gli fa il verso: «Uh, paisà!» E Duca, che non sa stare allo scherzo, gli corre dietro col pistolone austriaco puntato, urlando: «Io ti bruci i cervelli, io ti rompo i corni!» Ma Pin s'azzarda perché sa che gli altri tengono per lui e lo difendono e si divertono a mettere in mezzo i calabresi. Marchese con la faccia spugnosa e la fronte mangiata dai capelli. Conte allampanato e melanconico come un mulatto e Barone, il più giovane, con un grande cappello contadino nero, un occhio strabico e la medaglietta della Madonna appesa all'occhiello. Duca di mestiere faceva il macellatore clandestino e anche al distaccamento, quando c'è qualche bestia da squartare, soffre lui di farlo. C'è un oscuro culto del sangue in lui. Spesso partono, i quattro cognati, e vanno a valle verso le coltivazioni di garofani, dove vivono le sorelle e loro spose. Là hanno duelli misteriosi con le brigate nere, appostamenti e vendette, come facessero una guerra per conto proprio, per antiche rivalità familiari. Alle volte, alla sera, Zena, il lungo detto berretta di legno, dice a Pin di stare un po' zitto, che ha trovato un pezzo bello del libro e lo vuole leggere forte. Zena, il lungo detto berretta di legno, passa giornate intere senza uscire dal casone, sdraiato sul fieno pesto, leggendo un grosso libro intitolato Super Giallo, al chiarore d'un lumicino a olio. È capace di portarsi il libro dietro anche nelle azioni e di continuare a leggere il libro posato sul serbatoio del mitragliatore mentre si aspetta che arrivino i tedeschi. Ora legge forte con la sua monotona cadenza genovese, storie d'uomini che spariscono in misteriosi quartieri cinesi. Al dritto piace sentir leggere e fa stare gli altri in silenzio. In vita sua non ha mai avuto la pazienza di leggere un libro, ma una volta, stando in prigione, ha passato ore e ore a ascoltare un vecchio detenuto che leggeva ad alta voce Il Conte di Montecristo, e questo gli piaceva molto. Ma Pin non capisce che gusto ci sia a leggere e s'annoia, dice: «Berretta di legno, cosa dirà tua moglie quella notte?» «Quella notte?» fa Zena il lungo detto berretta di legno, che non è ancora abituata alle uscite di Pin. «Quella notte che andrete insieme a letto per la prima volta e tu continuerai a leggere i libri per tutto il tempo. Faccia di porco spino!» gli fa Zena il lungo. «Labbra di bue!» gli risponde Pin. Il genovese ha una larga faccia pallida con due labbra enormi e occhi slavati sotto la visiera d'un berrettuccio di cuoio che sembra legno. Zena il lungo s'arrabbia e fa per alzarsi. «Perché labbra di bue? Perché mi chiami labbra di bue?» «Labbra di bue!» insiste Pin, tenendosi fuori dal raggio delle sue mani enormi. «Labbra di bue!» Pin s'azzarda perché sa che mai il genovese farà lo sforzo di corrergli dietro e che dopo un po' decide sempre di lasciarlo dire e si rimette a leggere, tenendo il segno con il grosso dito. È l'uomo più pigro che sia mai capitato nelle bande. Ha una schiena da camallo, ma nelle marce ha sempre qualche scusa per andare scarico. Tutti i distaccamenti hanno cercato di disfarsene finché non l'ha mandato col dritto. «È una crudeltà», dice Zena il lungo detto berretta di legno, «che gli uomini siano costretti a lavorare tutta la vita. Ma ci sono paesi, in America, dove la gente diventa ricca senza tanta fatica. Zena il lungo ci andrà appena ripartiranno i vapori. La libera iniziativa, il segreto di tutto è la libera iniziativa», dice stirando le lunghe braccia, disteso nel fieno del casone, e riprende a compitare col dito, muovendo le labbra, sul libro che spiega la vita di quei paesi liberi e felici. A notte, mentre tutti ormai dormono nella paglia, Zena il lungo detto berretta di legno, detto labbra di bue, piega l'angolo della pagina incominciata, chiude il libro, soffia sul lumino a olio e s'addormenta con la guancia posata sulla copertina. I sogni dei partigiani sono rari e corti, sogni nati dalle notti di fame, legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti, sogni di pezzi di pane morsicati e poi chiusi in un cassetto. I cani randagi devono fare sogni simili, d'ossa rosicchiate e nascoste sottoterra. Solo quando lo stomaco è pieno, il fuoco è acceso e non si è camminato troppo durante il giorno, ci si può permettere di sognare una donna nuda. E ci si sveglia al mattino sgombri e spumanti, con una letizia come d'ancore salpate. Allora gli uomini tra il fieno cominciano a parlare delle loro donne, di quelle passate e di quelle future, a fare progetti per quando la guerra sarà finita e a passarsi fotografie ingiallite. La Giglia dorme vicino al muro, al di là di suo marito basso e calvo. Al mattino ascolta i discorsi degli uomini carichi di voglia e sente tutti gli sguardi che si avvicinano a lei come una schiera di bisce tra il fieno. S'alza allora e va alla fontana a lavarsi. Gli uomini rimangono nel buio del casolare con pensieri di lei che s'apre la camicia e si insapona il petto. Il dritto, che è sempre stato in silenzio, s'alza e va a lavarsi anche lui. Gli uomini insultano Pin, che legge i loro pensieri e li canzona. Pin è in mezzo a loro come tra gli uomini dell'osteria. Ma in un mondo più colorato e più selvatico, con quelle notti passate sul fieno e quelle barbe cariche di insetti. C'è in loro qualcosa di nuovo che attrae e impaurisce Pin, oltre a quella ridicola smania di donne comune a tutti i grandi. Ogni tanto tornano al casolare con qualche uomo sconosciuto e giallo, che si guarda intorno e sembra non riesca a schiudere gli occhi spalancati e sembra non riesca a schiodare le mascelle per chiedere qualcosa che gli sta molto a cuore. L'uomo va con loro, docile, nei prati secchi e nebbiosi che si stendono alla fine del bosco e nessuno lo vede più tornare. Qualche volta, addosso a uno degli altri, si rivede il suo cappello o la sua giacca o le sue scarpe chiodate. Questa è una cosa misteriosa e affascinante e Pin vorrebbe ogni volta accodarsi al piccolo drappello che si incammina per i prati, ma gli altri lo scacciano con male parole e Pin si mette a fare salti davanti al casolare e a stuzzicare il falchetto con una scopa d'erica e intanto pensa ai riti segreti che si svolgono sull'erba umida di nebbia. Una notte, per fargli uno scherzo, il dritto gli dice che nella terza fascia di prato c'è una sorpresa per lui. «Dimmi cosa, dritto, mondo boia!» fa Pin che si strugge dalla curiosità, ma prova un sottile timore per quelle radure grigie nel buio. «Vai avanti per la fascia finché non la trovi», fa il dritto, e ride tra i denti cattivi. Allora Pin cammina solo per il buio, con una paura che gli entra nelle ossa come l'umido della nebbia. Segue la striscia di prato per i costoni della montagna e ormai ha perduto di vista il bagliore del fuoco alla porta del casolare. Si ferma a tempo, tra poco ci metteva un piede sopra. Sotto di sé vede una grande forma bianca stesa attraverso la fascia, un corpo umano già gonfio a schiena nell'erba. Pin lo guarda incantato, c'è una mano nera che sale dalla terra su quel corpo, scivola sulla carne, s'aggrappa come la mano d'un annegato. Non è una mano... È un rospo, uno di quei rospi che girano una notte per i prati e che ora sale sulla pancia del morto. Pin, con i capelli ritti e il cuore in gola, corre lontano per i prati. Un giorno torna all'accampamento Duca. Era stato via con i suoi tre cognati per una delle loro spedizioni misteriose. Duca arriva con una sciarpa di lana nera attorno al collo e tiene in mano il berretto di pelo. «Compagni», dice, «hanno ammazzato mio cognato Marchese». Gli uomini escono dal casolare e vedono arrivare conte e barone, pure con sciarpe di lana nera attorno al collo, che portano una barella di pali da vigna e rami d'olivo con dentro il loro cognato Marchese, ucciso dalla brigata nera in un campo di garofani. I cognati posano la bara davanti al casolare e rimangono a testa scoperta e a capochino. Allora s'accorgono dei due prigionieri. Ci sono due prigionieri fascisti catturati nell'azione del giorno prima, che se ne stanno lì scalzi e spettinati a pelare le patate, con la divisa dai fregi strappati, spiegando per la centesima volta a ognuno che s'avvicina che loro ad arruolarsi erano stati obbligati. Duca ordina ai due prigionieri di prendere il picco e la pala e di portare la bara ai prati per seppellire il cognato. Così si incamminano. I due fascisti portano il morto sulle spalle adagiato sulla barella di rami, poi i tre cognati, Duca in mezzo, gli altri ai lati. Nella mano sinistra hanno il berretto tenuto sul petto all'altezza del cuore. Duca il berretto tondo di pelo, conte un passamontagna di lana, barone il grande cappello contadino nero. Nella mano destra hanno ognuno una pistola puntata. Dietro, a una certa distanza, seguono tutti gli altri in silenzio. Duca a un certo momento comincia a dire le preghiere per i morti. I versetti latini nella sua bocca suonano carichi d'ira, come bestemmie, e i due cognati gli fanno coro, sempre con le pistole puntate e i berretti tenuti sul petto. Il funerale avanza così per i prati, a passo lento. Duca dà brevi ordini ai fascisti di andare adagio, di tenere dritta la barella, di girare quando si deve girare, poi ordina loro di fermarsi e di scavare la fossa. Anche gli uomini si fermano a una certa distanza e stanno a guardare. Vicino alla bara i due fascisti che scavano ci sono i tre cognati calabresi a capo scoperto, con le sciarpe di lana nera e le pistole puntate che dicono preghiere latine. I fascisti lavorano con fretta. Hanno già scavato una fossa profonda e guardano i cognati. «Ancora», dice Duca. «Più profonda», chiedono i fascisti. «No», dice Duca. «Più larga». I fascisti continuano a scavare e a buttare su terra. Fanno una fossa 2-3 volte più larga. «Basta», dice Duca. I fascisti adagiano il cadavere di Marchese in mezzo alla fossa, poi escono per ributtare dentro la terra. «Giù», dice Duca. «Copritelo restando giù». I fascisti fanno cadere palate di terra solo sopra il morto e rimangono in due fosse separate ai lati dal cadavere sotterrato. Ogni tanto si voltano per vedere se Duca permette loro di salire, ma Duca vuole che continuino a buttare terra sul cognato morto, terra che già forma un'altra tomba sul suo corpo. Poi viene la nebbia e gli uomini lasciano i cognati a capo scoperto e pistola puntata e se ne vanno. Una nebbia opaca che cancella le figure e smorza i suoni.